Mi ha rubato, mamma mia! E così lo definiamo, se lo mangia, si mangia quei peperoncini, quelli grandi, a morsi, senza pane, senza nulla, a morsi, così. Timo di bianco che vada a sbloccare la stampante. Forse non sentono il piccante, non lo fanno per spiritosaggine, non lo so. Una volta c'era questo amico nostro del Cison che mangiava così, e una volta nella Fede abbiamo aperto una fetta, lui si prendeva sempre la fetta più grossa, e l'abbiamo messa sopra e l'abbiamo riempito tutto di pepe dentro. Se se l'ha mangiata, non l'ha dipunta, io sarei saltato a questo. E certo che io non ne posso mangiare perché soffro di emorroidi, capito? Subito mi sa carieggia. Oh raga, entro al volo, dai. Dai, entro e entro. Entrato, sono entrato, dai, vi saluto ragazzi, io scappo. Vado a farmi una passeggiata per una boccata d'aria, dai. Saluto i circolari a tutti e ci si sente quanto prima, dai. Bau bau, micio micio a tutti quanti, ciao. Ciao Gianni, ciao, buona passeggiata, ci sentiamo. Gianni, fa una diretta, dai, così facciamo un gol di risata. Spina Giugana, ciao, buona serata a tutti. Ebbene, Lucrezia, come si vendete? Qua sto vendendo, l'MB40, un po' picco. Oh, sto mangiando qua, che poi non posso mangiare, c'è mamma. Ma l'hai venduto? No, poi si chiama la mano, lo mettiamo la testa. Ma quello lì non era quello modificato che ti avevo preso io? Chi cazzo, cioè, mi siamo venuti di 90, di un media. No, ma come l'ho fatto a Luca Monte Nurra? Ah, ho capito. Ah, vabbè. Quello lì uno l'avevo preso e andava bene, te lo ricordi che era un bel bello. Ma cazzo, già, 20 anni fa. Sì, ma l'avevo pagato anche poco, Mi ricordo che avevo fatto l'affare. Sono rientrato, ragazzi. Sì, tipo 50.000 lire, boh. Sì, avanti. Sono rientrato, vai. Miscia, dove sei? Sotto casa tua, si può dire. Vai, vieni da sotto, se no diranno pure bagaglia. Esatto, capo c'è il brodo pronto. Ho detto, ma in più se me lo scaldo stanotte me lo mangio. E invece è rimasta solo la carne, però un pezzettino di carne si è mangiato, un pezzo di pane con formaggio. Per prendermi le medicine. E fate, tu cosa vai? Che battata in bocca, Luca, si sei tutto bu bu bu bu. Oh, sta male, così. Dai, lui ripeti, prego, aiuto. Ci è diventato loro comunque. Dove sei, Cristian? Diciamo, lì nell'aria, sono andato a casa tua, lì nell'aria, di fronte. Ah, sì, praticamente lì alle luci. Lugliana. Ho capito. Va bene, l'hai vista l'antenna nuova, sì? No, non l'ho vista, no, non ci ho fatto a casa ancora. Cazzo, lì al vento stamattina. Ui, ui, ui. Cosa vera di venti loghi, soffiava, ma fischiava proprio. E dice a me che vuoi la bagliendi, all'aperto. Bella. Tu sei in alto, normale, ma la Maria tira un bello stesso, ma tira! C'è quell'albero alto, alto, che di fronte alla faccio l'antenna io, ma fa un casino della Madonna. Per contare tutte le foglie che porta dentro, lo dico dentro casa, comunque il terrazzo. Tutti gli insetti, non c'è il vento lì, è micidiale. Infatti non lo so come cavolo ha fatto, vuol dire che oggi era proprio potente, mi ha piegato l'antenna, cioè l'antenna. Quella, come si chiama, una... ho messo forse il lamierino, no? E lì ho messo il palo. Il palo è un po' pesantuccio, anche se da un metro, perché è palo grosso, lo pieno. Ho anche tirati, ho messo, l'ha piegata comunque. Così potente, 60 km all'aria era. Quanto? 60. Ma fischiava forte. Ma c'era tutto il fischio. Facciamo così. Devono essere gli alberi anche che magari come bloccano, lo bloccano un po'. Fischia. Vabbè, buonasera comunque. Buonasera, buonasera a tutti, stavo ascoltando e stavo parlando in VHF. 60 km all'aria, niente di che. Ti ho detto, fischia, immaginate qua su, che sono 3 volte più alto di te. È un casino, quando c'è maestrale poi arriva dal mare, a me quello che mi arriva di più è maestrale, greccare l'imbeccio, le becce davvero sono aperte, mamma, le becce l'ho fatto forte, ero appena arrivato, avevo messo le fatte fare dal falegname, le paratoie per separare la cosa lì, come si chiama, la veranda, il legno, quelle tipo rette, no, il legno, sono in massello il legno. Avevo messo solo due tascelli, li ha caricati e me l'ha fatta tutta a pezzi. Ho scusato l'altro, Natalino ci sei? Ho capito, quello è a Rubi, ho capito quali sono. Aspetta già, Natalino ci sei? Oh, non c'è, vabbè. Stanno mangiando, si fa l'inizione a quest'ora, sta lì. E quella lì, quella rombi già. L'ha caricata al muro e l'ha buttata fuori del muretto, fuori dei due. Era molto più forte di adesso già è leggero. Poi lo fa uscito Filippo, io ero fuori, ho abbassato anche il vento, però c'è sempre freddo. Anche io l'ho portato poco fa perché stavo mugugnando, non dovevo fare, ma con cacca, ho fatto fuori solo un po' di pipì e basta. Adesso devo andare dalla dottoressa di nuovo perché gli ho mandato il messaggio e non l'ha letto. Sono andato dalla dottoressa e mi ha detto, io non ho letto i messaggi, tu li verso le 8. Mi voci, ma fammi due ricette. Che già stiamo diventando, guarda, allucinante, brutti che dottoressa. Ma vabbè. No vabbè, domani è previsto lo stesso, un po' di vento, stavo guardando. Però io me ne altimetro mi dà anche il vento, era intorno ai 60-62 km orari, non di più. Ma è strano così, sta 4-5 giorni sempre. Maestrale, l'ha detto il maestrale. Dura dai 3-5 giorni sempre. Ha detto al televisore che era maestrale sulla Sardegna. Dica che non dico greccare. Maestrale non greccare. E magari si è girato a greccare adesso, capito? No. Roberto è un po' che effetto che è greccare oggi. Maestrale è già greccare. Lo già greccare. Io. Sura me. Quindi Luca, niente brodo. No, ma senti dei carmi, però una cosa sta fatto. Stavolta poi mandati di buoni, a dolci. Io stasera mi sa che vi faccio una bella minestrina calda di dadi. No, ho già fritto stasera. Voi l'avete fritto. E adesso metto a friggere un po' di patate fritte, un po' di cotolette, un po' di cosa fritta. Un po' di cosa fritta. La cosa fritta l'ho fatta tanto bene. Qua ne stavo mangiando il periodo scorso e mi saliva la glicemia, allora bisogna darle un taglio. Mi mangio una minestrina, qualche cosa così di secondo, una fettina, un po' di salata e buh. E tira campa, adesso la minestrina ci vuole perché c'è freddo e ti scalda. Ho mangiato due piatti di ceci bollenti con i finocchietti selvatici fatti qua, buonissimi, la notte. Guarda, noi qua, forse l'unica casa di questo rione qua che i fritti li mangiamo forse in un mese due volte, quindi non si mangiano fritti qua, poi mia figlia non vuole far mangiare queste cose, capito? Però oggi abbiamo deciso, abbiamo voglia, lo facciamo, adesso intanto chiudo. Ma i fornelli. E chiudo anche io che devo andare dalla dottoressa, allora vi saluto tutti. Mi ha fatto piacere fare questo piccolo QSO, ma devo andare, mi dispiace lasciarvi, ma il dovere mi chiama, anche perché se finisco le pastine sono guvutini. Vai allora, vai veloce. Vai già, vai, lascia stare la radio che è più importante. Ci aggiorniamo, tanto mi avessi un po' di passaggi, poi chiudo anch'io. A me Cristi, ancora in giro, sì. Ciao Claudio. Sì. E io, allora voglio tutti, scendendo forse, se ci riesco a casa. Sì, se ci riesci, stai andando a casa, perché non ci devi riuscire. Ma che devo andare, prima, ma che pellet, che l'ho diventato con un amico, devo fare altro, quattro volte di strada in macchina, io al vuoto. Ah, no, io lo faccio ogni settimana. Io faccio da lunedì a lunedì, da lunedì alla domenica, e lunedì poi vado e le faccio il carico. Non lo giustano, ho detto prendono. Prendo un po' di sacchi, li metto nel Calvario, quando mi scelgo la fare lo prendo. Ma io ho finito ieri sera, l'ho ordinato e mi è già arrivato. Ma insomma me lo ritiro proprio, poi lasciando tutto a casa e faccio un bello doccio nel caldo, una bella cenetta come Dio comanda. Freddo c'è fuori. Temperatura fuori mi stava segnando 5 gradi poco fa. Io ho qualcosa attaccato lì alla colonna della veranda, 5 gradi, dentro 24 e mezzo, quasi 25, fate il conto. Di una stamattina che stavo lavorando all'aria aperta e non c'era freddo. C'ho i polaretti, come scaricando mattoni. Mamma mia. Poi già ci sono passato qui, anche io già ne ho preso di freddo e di temperie. Lo so che hai preso, non poco, parecchio pure. Ma parecchio, ma mezzo all'eva, mezzo all'acqua, ma ne ho preso un bel, è freddo soprattutto lì nelle montagne Trenta, Lagurto, Agius, Duras, mamma mia. E sono giocando a Bolvia, Sant'Antonio mio. Bravi, dai, Clara, non ti vedi bene, hai schicciato. Un bel, ma me ne hai schicciato pure a me. Me ne hanno schiacciato un bello, già ne ho schiacciato anche io, però già me ne hanno schiacciato. Vogliamo sacare di tavola. Casino, vabbè, oggi lo stesso ne ho preso un freddo, penso che non lavorava ai parcheggi, quando ero giovincello. Purtroppo d'inverno lì, l'inverno pieno, sai quanti acquazzoli mi sono preso? E noi? Noi ci troviamo ai lavori stradali, per dire, chiamavano, si è spaccata la condotta tra Santa Maria Cugina, eccetera, quindi aspettavi l'impresa, aspettavi l'autospurgo, aspettavi insomma tutta la quello che ci voleva, ma il tempo bruma, sicuro ci hanno, tu mi piove, cosa vuoi accontare? No, fai scappare, ci avete un fascione, sta perdendo qui e là, vabbè. Ecco, fatto apposta, tutto lavoro in mezzo all'acqua, in mezzo all'eva, come Dio ti ha fatto. Intratto. Ciao Carlo. Ciao Claudio, no, mi ero spostato perché c'era la stampante in blocco, mia moglie doveva stampare dei compiti ed era finito l'inchiostro, quindi stavo aspettando che andassi via la spia. Ah, l'hai sostituita, hai messo a posto? Sì, sostituita perché era finita quella dell'inchiostro nero, quando se ne blocca una, se che finisce una si blocca tutta la stampante. Buongiorno, di nuovo buonasera, sono qua. Chihuahua. E allora, Chihuahua, allora. Ah, stasera un po' meglio, ho preso un VVC, adesso non ho preso troppo cena. Però voglio cenare presto, oggi 8:30, 9:15, se possibile anche le 8:30, perché poi mi traio un divano, c'è la partita su canale 5, mi guardo un po' di calcio e mi rilasso. C'ho il pollo in forno, per le 8 dovrebbe essere pronto, ceniamo anche io qui a vedere la finale di Supercoppa Italiana e Forza Juve. Carlo, guarda che lo sa anche Claudio, cioè non so se lo saprà fare, però lo sa se si può mettere il microfono. Claudio, il microfono MB40, siccome Eugenio ne ha uno che è nuovo e praticamente lo vuole vendere, però volevo sapere se si può adattare alla mia radio che ha 6 poli. MB+4 stai dicendo, quello adattato? Sì, scusa, l'MB+4. Certo, c'hai 6 poli perché c'hai il down app, giusto? Come è clà? Ho detto, tu c'hai 6 poli perché il tuo microfono originale c'ha il down e app, giusto? Signore, sì signore. Perfetto, e down e app, le linee, perché l'MB+4 down e app non è, quindi ne usi solo 4. E 4 fili sono sufficienti per usare l'MB+4. Quindi non devo sostituire niente allora. Devi sostituire. Non colleghi due fili del down e app, poi ci avrai uno schema, ci avrai qualcosa dove ti indica numero 1 down, numero 3 up, l'1 e 3 li elimini e usi tutti gli altri numeri. Gli altri 4 fili che escono da quel microfono per collegare il connettore a 6, capito? Oppure come colleghi il connettore a 6 nel nell'MB più 4, usando però 4 fili anziché 6. Capito, capito. E vabbè, nel caso se mi cerco un po' come sono, diciamo, i poli dove sono i tasti up e down, si eliminano quelli e dovrei riuscire anch'io al limite. Casomai già vi chiedo qualche consiglio prima di farlo. Sì, è una fesseria, ma io non ci vedo, mi chiedo a me a salvare, perché tu mi cerchi prima di tutto quali sono, qual è i numeri che sono il down e up, e li escludi. Poi ti prendi il carretto dell'MB più 4 e vai a cercarti con il tuo connettore sempre a 6, ok, perché ce l'hai a 6, a meno che non ti fai un adattatore 6-4, ma non serve a niente. Usi il connettore a 6 eliminando i due down e up, ne usi 4 e ti fai ricezione e trasmissione, portante, forse anche 3 dovrebbero bastare, perché mi pare che la calca va attaccata ad uno dei colori, adesso mi ricordo. Comunque fai calza, poi fai ricezione, trasmissione, portante, sono 4 fili che ti servono, 3 più la calza. Nemera, avanti Brecco. Sì, esatto, la radio è quella. Ma l'MB più 4 l'ha alimentata a batterie, non è a 12, no? Mario, qua stai dicendo. Lui ha solamente in più il down e l'up e basta. Lascia perdere. Ascolta Mario, a prescindere da quel, lui non deve usare quel microfono, lui deve usare l'MB più 4 da tavolo, ok? Quello lo prende e lo mette dentro il cassetto. Dalla radio, lui col tester deve sapere qual è il numero che corrisponde al down e up, e lì non si collega niente, quindi non c'è alimentazione, ok, non gliene fate niente, nulla. Tre fili più la massa lui deve collegare all'MB più 4 con un connettore a 6 senza nessuna alimentazione. 12 volte non è così. Ecco. No, aspetta. Meglio ancora se abbiamo l'alimentazione. Intanto 12 volts in un connettore microfonico non esiste. O 6 volts o 8 volts. Ok. 12 volts è alimentata la radio, non il connettore. Al connettore possono arrivare o 6 volts o 8 volts. Meglio ancora. Allora, se tu lascia perdere il down e up, il microfono che è alimentato, non ce ne fai un cazzo. Ok, qui c'è sei poli, maschio e femmina. Monti il sei poli maschio nel microfono, ok? E vai a cercarti l'alimentazione 8 volts, o 6 volts o 8 volts, che ti dà la radio sul connettore della radio. Così ti colleghi direttamente anche il microfono 8 volts. E non hai bisogno neanche della batteria microfonica, il microfono viene alimentato direttamente, il circuito di amplificazione direttamente dalla radio, come è alimentato questo è alimentato 8 volts direttamente dalla radio, non usa batteria, capito? Perché anche questo è 8, quello è 6, il mio è 8 puri, capito? C'è il break di Roberto, comunque Carlo siamo qua, non c'è problema. Se hai difficoltà a fare un fischio già lo facciamo fare, non c'è problema. Avanti Roberto. Sì, buonasera a tutti. Ma Carlo o Mario? Mi sembrava Mario. Mario stava commentando il microfono, poi io stavo rispondendo a Carlo. Ah ok, non l'ho sentito. Ok, beh, sentiti tutti, almeno ho sentito solo a Mario, Claudio, e facciamo venire avanti a Carlo, c'è qualche altro poi. C'è Eugenio. Ah, c'è anche Eugenio, ciao Eugenio. Vediamo prima a Carlo e poi Eugenio. Carlo, avanti a te. Sono rientrato. Ciao Roberto, no, rispondo Mario se ancora in ascolto. Sì, ho capito quello che mi sta dicendo Mario, praticamente mi devo cercare bene i collegamenti, dovrei averli giù nel libretto della radio, tutti i contatti del microfono. Prima di farlo ovviamente starò ben attento all'alimentazione che arriva al microfono e vedo un po' come se è fattibile la cosa o meno, ma penso di sì, stando attento dovrei riuscirci, insomma, tutto lì. Comunque apprezzo il consiglio di non toccarlo e per non, diciamo, bruciare bruciare la radio, ma dovrebbe essere così. Carlo, quello che ti ha detto Mario è giusto, nel senso che se tu colleghi un altro microfono a sei poli con sei fili, allora devi stare attento ai collegamenti. Ma tu stai andando a collegare un microfono a quattro fili, quindi due li elimini. A te della corrente della radio non te ne frega niente, assolutamente niente. Tu ti devi cercare, devi eliminare il down e up, li elimini, quindi non c'è più tensione, non devi toccare nulla, non puoi sbagliare. E vai a cercarti la calza, il TTT, la ricezione e la trasmissione, boom, basta. Il microfono che tu stai usando non è alimentato dalla radio. In quel caso lì che sta dicendo Mario, se tu vai a cambiare un microfono a sei fili e ne usi un altro a sei fili, allora è chiaro, devi stare attento perché devi collegare l'alimentazione giusta, se no bruci la radio. Ma tu stai andando a collegare un microfono a quattro, quindi dei fili dell'alimentazione a te non te ne frega assolutamente niente. Ho capito perfettamente, sì, in teoria è così, quelli si escludono automaticamente, quindi non credo che compromettano né la radio né il microfono che vado poi a sostituire. Appunto, in caso contrario, come ti ha detto Mario, se tu vai a montare un microfono a sei fili sostituendolo con un altro a sei fili, devi stare attento a farlo uguale, perché se sbagli l'alimentazione allora puoi bruciare la radio, perché lì ci sono gli 8 volts che sono collegati al connettore del microfono. In quel caso lì 6 e 6. Se tu invece vai a collegare un microfono come l'MB più 4 che ha 4 fili, ok, c'ha 4 fili, non serve a niente, devi eliminarli quelli, quindi non vai a compromettere niente. Tu non tocchi l'alimentazione che c'è nella radio, vai a collegarti solo la portante e la ricezione del microfono, basta, che poi mi sembra che alla fine ne devi collegare 3, posso. Comunque fai come ti ho detto io, la prima cosa che fai è eliminati il down e up, nel senso i numeri, in modo che li escludi e dici l'1 e il 3 non li devo toccare perché c'è l'alimentazione, e vai a lavorare sul 4, sul 5, sul 6, capito, più la calza, basta. Avanti oggi, comunque l'MB più 4 è un ottimo microfono, io l'ho avuto, io ho le due MB più 5, ma avevo anche, c'ho anche l'MB più 4, funzionano molto bene, con tutti i baracchini. Vai oggi. Scusa, Claudio, perché io non ho degli apparati, un microfono a 4 poli, praticamente stiamo parlando di due. Si può fare, lo posso lasciare a Claudio, perché io domani mattina devo fare una commissione, se va tutto bene esco di casa e devo salire la stazione a ritirare un televisore. E faccio due cose in uno, lo lascio a Claudio, se Claudio è disponibile, poi tu passerai a prenderlo, che ti viene meglio. Claudio, cosa ne pensi? Ci sei domani mattina. Dice, ma tu sei mai come sono io? Come fai? Ci dobbiamo vedere fuori da qua. Ci dobbiamo vedere fuori da qua. Non è un problema, capito? Non è un problema. Per me non c'è nessun problema, se no la cosa che tu puoi fare è veloce, senza coinvolgere a me, perché io purtroppo non è che mi posso muovere con questa cosa. Puoi lasciarlo da Roberto, e Carlo passa a prendersi da Roberto, capito? Se vi mettete d'accordo, passa direttamente da Roberto. Non lo so, vedete voi, poi se volete coinvolgere a me io non ho problemi. Passa da me oggi, così ti saluto. Va bene, ma no, era per ritirare l'altro lì, qua. Capito, così mi ha vestiato l'altro a provare. Non c'è problema, io a che ora vai tu? Io te lo posso portare da Roberto il microfono oggi, no, non ho problemi. Lo posso portare da Roberto, capito? Lo posso portare da Roberto. Lasciate a Roberto, passatelo prendere, anche la passate da Roberto. Non lo so a che ora finisco, io vabbè mi alzo presto la mattina, faccio questa commissione, poi vabbè partirò da casa alle 9:30, capito, partirò da casa alle 9:30, salgo a Sassari, devo andare in via Maruggio, o Piero Maruggio, è possibile, devo ritirare un televisore che l'ho portato a aggiustare, era in garanzia, sotto il ponte, rimane. una via un po' strana. Sotto il ponte, via Monsignor Morongio, Lope. Via Monsignor Morongio è una traversa di coso, di come cazzo si chiama? Ah no, scusa, quella via Santa. Via Monsignor Morongio, dopo il cavalcavia può essere. Se non lo sa Carlo che dalle fatti sue, la parte via Carso. Ah sì, via Monsignor Morongio è dalla parte via Carso. Vero Carlo? Sì, sì, è lì proprio, via Bucca, di quella zona lì. Da Viale Trento, che è chiusa, oltretutto Viale Trento, per lavoro in corso. Ho fatto un giro strano. Confermo, è lì. Sì, la traversa di via Coso, di Viale San Francesco. Esatto, esatto. Quindi non so che negozio ci sia, forse c'è un negozio che ripara televisori proprio lì in via Morongio. Da via Carso puoi passare. Insomma, devo fare un giro strano perché non mi ricordo nemmeno dove sia. Ci sono andato l'altro giorno, ma ho usato il navigatore. Passo lì, ritiro il televisore e poi salgo da Roberto. Perché poi quella via è a senso unico, la fai tutta quanta ed esci praticamente al mercato del pesce lì. Capito? Ehi, hai detto bene, tu puoi salire e fai Viale Umberto, giri a sinistra, cos'è, Viale Trieste, quella via che sale, e poi giri di nuovo a sinistra e scendi, cos'è, Viale Mamelia ancora, non so se sia Viale Mamelia o cos'è, giri di lì e poi c'è Viale San Francesco ed è una traversa di Viale San Francesco. Esatto. Ascolta, ma sali l'altro tu a provarlo io, o ti tieni anche quello? Cioè, non ho capito, io porto il MP4 a Roberto. E tu mi porti il P5? Io il P5 te lo lascio da coso, poi tu il P4 poi lo puoi lasciare lì e sarà già Carlo con te. No, sto dicendo, sali anche l'altro, quello tuo, a provarlo io, oppure te lo tieni quello? Non lo so, lo puoi provare l'MC60, per me è uguale. L'importante è che poi non rimango senza microfono, perché poi magari se lo fanno bene gli agganci. Ma cazzo, lo gioco più bene, ma non intendi? Non sto usando il 140 io con l'MP5, cosa sto usando? Se ti ho detto che connettore Kenwood, è come che stai usando il 60, perché il connettore l'ho visti, non c'ha batterie, non c'ha niente, è cablato Kenwood. Bene, se vuoi l'MC60 ti lascio l'MC60 a provare, non c'è problema. No, non hai capito, allora che tu mi piego meglio. Io te lo do questo qua e lo provi, se ti va bene, poi che te lo tieni, mi devi dare 60 a me, se no io rimango senza microfono, eh. Ah, ma non ne hai, ma le invece 60 non lo voglio vendere. No, io allora non ti lascio da manco, io pensavo che, no, neanche io lo vendo così, e cosa che tu mi compri, ci provo un altro microfono. Se è un cambio, sì, ma vendo, non lo vendo neanche io questo, ma stai scherzando, assolutamente. No, se vuoi io te lo faccio provare, ma non te lo posso vendere, assolutamente. Non te lo posso, pensavo che facevamo uno scambio. Se a te ti piaceva più la modulazione di quello lì, di questo, o usi questo, io mi prendo l'altro. Se no io rimango senza microfono, torno un altro microfono, anche io ne ho comprato due. Ho preso la Donis, ho preso un altro 60, ho preso la 200 euro il microfono, e cosa ci fa? Torno la raccolta, no. Assolutamente nine. Se vuoi io te lo faccio provare, non ho problemi, però io se quello a te piace, la modulazione, e te lo tieni, io voglio un altro microfono indietro. Ho capito. Cosa, no, mi piace un bel MC60. Già lo sai cosa ha fatto per averlo. Ti ho fregato fino alla morte. Lo so, io ne ho tre, quindi lo so, però... Se io stacco questo rimango senza microfono col 140, capito? Perché ce li ho tutti allineati. Ogni radio c'ha il suo microfono. Io posso stare un giorno senza microfono, lo provi. Però io no. Mi serve un altro microfono poi, capito? Capito oggi? Allora non ci siamo compresi, va bene così, a futtidini. Genio, comunque se domani vieni a Sassari, io domani sono libero, di mattina mi posso spostare a qualsiasi ora, per cui se tu hai la radio in macchina, mi fai una chiamata, io già ti rispondo, tanto la accendo presto. Quindi io dalle 8:30 posso accendere, così mi fai sapere quando sei a Sassari. Se passi da Roberto magari ci prendiamo anche un caffè insieme, e portati il microfono e così lo prendo io, quello tuo. Allora, io in macchina non ce l'ho, però vabbè, posso portare un portatile, lo attacco alla macchina e ti posso chiamare da lì. Ma scusate, non vi potete scambiare il telefono? Io ho quello di coso, di Carlo, lo do a Eugenio, vi sentite per telefono. Perfetto, se glielo mandi allora a Eugenio il mio numero, quando lui ha finito quello che deve fare mi chiama e ci incontriamo dove vuole lui, anche da te, se non disturbiamo, capito? Quello che volete, la coso è un punto di riferimento, così non avete problemi di parcheggio, di niente. Eugenio, allora Carlo mi autorizza a dare il numero tu a Eugenio, ok? Certo, va benissimo, mandaglielo pure. Eugenio, te lo sto mandando via WhatsApp. Ma tranquillo, vai. Aspetta un secondino, riprende, chi c'era qua poi? C'era anche Mario di Portatore, l'abbiamo lasciato in bianco. Avanti Mario. Ok, grazie Mario, comunque delle informazioni utili, e terrò sicuramente in considerazione quello che mi hai detto. Ben vengano queste informazioni, per carità. Già starò attento comunque, prima di farlo già mi organizzo bene, sarò sicuramente in grado di sapere dove mettere le mani, perché comunque prima mi guardo lo schema, capito? E comunque cerchiamo di escludere quell'alimentazione, e così non si fanno danni. Riprendete per i saluti a Mario, che mi sa che chiude. Riprendo io, vi saluto che devo fare. Ciao a tutti. Vabbè, mettiti d'accordo con Eugenia per questo microfono, così devo lasciare che devo fare cosa. Ciao a tutti. Ciao Mario. Riprendo io, dai. Ciao Claudio, ben sentito, avremo di sentirci spesso, per te è già più facile. Ciao Mario, poi chi c'è rimasto qua? Chi è che ha salutato? Non ho capito, oltre a Eugenio, c'era qualcuno, mi sono dimenticato. Ciao Roba, sono Cristian. Ciao a tutti e due, ciao. Aspetta, un bel di niente, io mi sono dedicato sia a Cristian e a Luca, c'era, scusatemi, e qua c'è un po' di confusione. Oggi ti ho mandato il numero di Carlo. È arrivato. Chi tocca? Luca, vai a te, per i saluti a Claudio e a Coso e a Mario. Ciao Claudio, ciao Mario. Mi dimenticate sempre. No, è così, dai, è capitata adesso, Luca, già lo sai. Oggi, poi magari domani fammi uno squillo allora che vuoi tu, tanto io alle 8 sono in piedi, capito? Ok, vabbè, allora no, io ti ripeto, vado a fare questa commissione presto, poi devo salire a SAS, alla commissione al produttore, poi devo fare una SAS, devo tirare il coso, il televisore, e poi andrò da Roberto. Vabbè, ma comunque ci sentiamo per telefono, dai. Va bene, chiamami quando vuoi, tanto io andare da Roberto ci impiego un attimo, proprio perché è vicino a casa mia. Ok. Casa, io adesso mi controllo la cena e mi sa che mi devo organizzare, e ci sentiamo alle prossimine, perché poi sono di partita stasera. Continuate pure, buonasera a tutti, Luca, Mario se c'è ancora, Claudio, Roberto, Gianni e compagnia cantanti. Ciao Carlo, io tra poco vado via, mangio qualcosa e poi mi guardo la partita. A me, Luca, non ti interessa a te, Inter Juve, tu sei Juventino o Interista? Juventino stasera solo. Ah, solo stasera? No, io sono Interista, Roberto, in Bari. Interista sì? Ha voglia. Allora già mi ricordavo bene, adesso mi stavi facendo confondere, infatti. Ok, ciao Carlo, dai, quando vuoi passa, già lo sai dove sto. Ok, facciamo entrare anche a Cristian, andiamo avanti, a te il mic, Cristian. Guarda, io mi vado, guarda la partita oggi. Ma scusate un attimino, Saverio, che fine ha fatto? Doveva metterci l'antenna, un sacco di roba, non l'ho più sentito. Saverio è impegnato, la famiglia, non ha tempo, lavora, un casino. è tutto entusiasta, appassionato, ma ha chiesto anche lo strumentino per fare le stazionarie, eccetera, eccetera, doveva mettere l'antenna e poi sono da tanto tempo che non, molto prima di Natale, almeno un mesetto minimo che non lo sento. Ciao Vito, fa il pizzaiolo, ora fa la nostra modulare, lo fa l'agliente. Sì, già lo so che fa il pizzaiolo, ci sono anche andato a mangiare il pizza e sono buone. Però dico, era tutto impegnato nel senso all'inizio, poi non ho più sentito a Giulio, infatti dovevo chiamare, tutto a posto, l'avete sentito voi a Giulio? No. Ci siamo fatti gli auguri a Natale, a Capodanno, però non l'ho più sentito lo stesso da tanto. Domani se non ricordo gli faccio uno squillo, se è tutto a posto. Ok, e chi è rimasto qua? Eugenio, Luca, Cristian e poi c'è qualcun altro. Se c'è Bombolino, Antonio, ci sei. Break? Avanti. Buonasera a tutti i diaboliti, ciao Luca. Vabbè, come mi senti? Benissimo, 9+20 segnale da Radio 5, leggermente Mario un po' cupa, però è chiara, si vede abbastanza benissimo, dai. Tappa QSL, il mio amico KB non c'è qua oggi. Ciao Walter, beh, come stai? Ciao Luca, bene. Dov'è la Mantova 1? Ciao Walter, non ho capito io. Faccio la Mantova 1. Abiti sempre lì in via dove fanno i vaccini? Ma me stai dicendo? Eia! A casa di Canada abito sempre, guarda. Dove stai abitando? Adesso sono a casa della mamma, che c'ho il Covid. Ma non abiti lì vicino a via Mancaleoni, quella zona lì? Ehi, questa è Canada, sì, quella zona lì, a monte alto. Sì, vabbè, ma che antenna hai? No, perché mi arrivi in 7 di segnale. Anche tu arrivi in basso, non arrivi in forte, sei un passaggio. 1, 2, 3, 8. Se devo 5, perché positivi sei. Sì, ho armato a 5. Che strano, Roberto mi arrivano per 10. Dipende dalla posizione, Walter, adesso mi fa. Purtroppo sono coperto da palazzi. Break! Avanti, break. Buonasera, buonasera a tutti! Da questa parte Antonio! Ciao Antonio, dove sei e come ti arrivo? 9:10 e Radio 5. Dove sei? È in zona Sassari Vecchio. Tu mi arrivi 9:05 lo stesso. Avanti Roberto. Avanti, tu composti perché io ti ascolto a 9:20 e oltre, ho già i picchi superiori a 9:20 e loro ascoltano 7, che strano. E dove sei tu? Giù a Liputi sei? Sì. E come mai ti ascolto così forte? Strano, rispetto a loro. Ma lo so, perché cosa, quando ti arriva Luca? Luca mi arriva più forte di te, Luca arriva a 9:25, cioè, mica 9:25, quasi 9:30. Ah, c'ho stesso segnale. Vabbè. Ma che radio stai usando per curiosità, se lo vuoi dire Walter? Cos'è il segreto? Non c'è un cazzo, del 7007 della ICO. Cacchio, stiamo già parlando di qualcosina, mi stai dando parecchi, io ti arrivo 9:10, mi hai detto tu. Sì, sì, parecchi, 200 watt dalla radio. Gli stai dando tutti? Sì. Ah, per quello, stai andando alla bomba. Ma anche l'altro giorno mi è capitato con Eugenio, ti ricordi Eugenio, quando siamo andati, che eri col camper, che ti ascoltavo solo io, gli altri non ti sentivano nessuno, eri vicino ai punti, boh, probabilmente c'è un canale per quelle parti. Ma si sta piovendo, sta allagato. Che Giulio, ci sei? No. Tratto. Ehi, mi state chiamando a me, no? Sì, a te. Ci voleva Roberto Quadrato, va. Scappa, dimmi Robè. No, Eugenio ho detto. Eugenio è la portatore, ascolti a Walter, Eugenio. Con la voglia. Ciao Walter, buongiorno. Anzi, buonasera. Niente, avete lo stesso segnale con Roberto. Roberto, la radio è. Ciao Walter, sì. È molto molto molto. Sì. Io ti sento molto cupo. La mia modulazione è cupa. Vabbè, quella radio che sta utilizzando Walter può fare quello che vuole, può anche fare la voce di Paperino se si mette, stiamo parlando di cose molto ma molto evolute, non è paragonabile a quello che stiamo utilizzando noi, per cui lui può fare quello che vuole, è una grandissima radio, solo questo devo dire, non diciamo altro. Ok, chi è che ha detto a Rubasso? Chi l'ha detto? Avanti. Qualcuno ha parlato, ha detto a Rubasso quando stava parlando Eugenio. Sì, comunque sì, Eugenio mi arrivi bene, che tu mi arrivi 9:05. Più forte di Luca che a Sassari, che strano. Vabbè, però aspetta un attimino, questo c'è paragola, vaffanà. L'hai fatto il vaccino? Ho detto che c'è due vaccini qua. Non ho capito. Ho detto che ce li ho tutti e tre i vaccini. E c'è il Covid lo stesso. Eh sì. Adesso poi qua. Beh, il fatto che hai fatto i vaccini ti salva almeno. Tanto mio, ma ti sei rilassato, muove di dentro, muove di rampi. No, no, è meglio che l'hai fatto, io non sono un vaccino. Tu non hai fatto i vaccini? Tre. Molta gente non lo vuole fare perché ha paura di morire, oppure magari hanno, cosa ne so, ma sono allergici ai vaccini, boh, non so. No, sono fissazioni, ascoltano troppi social network, troppa gente, nessuno è un medico, tutti fanno discorsi loro. Questo sicuramente non è un vaccino definitivo, è un qualcosa che ti aiuta a passare meglio il Covid, perché se tu pensi che all'ospedale ieri su 28 erano tutti senza il vaccino, quelli che stavano malissimo, e uno vaccinato, che però non era preso forte. Dunque, vai nelle conclusioni, poi sono d'accordo che è una puttanata perché questo qui non è un vaccino definitivo come gli altri che abbiamo fatto, però cosa devi fare? Non siamo virologi né medici, per adesso mi affido a lei. Ma infatti, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, però io dico questo, se è mecca chi non è vaccinato sono cazzi amari. Sì, quanti ne sono molti, lo so. Vabbè, comunque, secondo me se ne vogliamo uscire è meglio che ci sia anche il contagio, perché almeno ci facciamo gli anticorpi e è come un'influenza alla fin fine. Per un'influenza come c'è la Luca, come l'ho passata io la prima volta, ma c'è gente che non la racconta più. Hai ragione, a me ha preso la gola. Vabbè, un po' di febbre, un po' di debolezza, ecco, cose così, febbre non più di 37 e mezzo, così, dai, però la 38 non ci è arrivata, non bisogna scherzare su queste cose, molta gente ci scherza, vabbè, ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole, a me non mi interessa. Sono d'accordo con te, Luca, sono d'accordo con te, avanti Roberto Rotondo. Allora, forse qualcuno ha sovramodulato quando ha parlato Luca, avanti, chi vuole entrare? No, ho schiacciato io la portante per sbaglio, dai, cappa. Dai, io mi devo assentare, ci sentiamo dopo se, ok? Sì, vabbè, tanto c'è la partita, io tra qualche minuto chiudo, vado a mangiare qualcosa e mi guardo un pezzo di partita, sperando che sia una partita piacevole, che non sia le solite partite 0-0 e poi finiscono i rigori che non mi piacciono. Di nuovo a te Antonio per i saluti, Walter per i saluti ad Antonio. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Eugenio di nuovo Borotto, mi dici quanto arrivo lì ai punti? Quali sono stati? 9 più 7, dai. 9 più 7, andami là. Tu stai usando un microfono, è un Kenwood, qualcosa del genere, dal rumore. Comunque arrivi bene. Sì, ho il Kenwood con l'MC60. Capano, io il microfono sto usando un SM20. Il microfono è quello, l'antenna sto usando una Mantova 1 ben serrata, però basta. Ok, hai lo stesso segnale di Roberto, tu è identico. Roberto è in alto però. Sì, passate il 9 tutti e due, dai. E Claudio quando ti arriva? Come scusa? Claudio Spaliero. Claudio adesso, da dove adesso mi arriva 8. Meno male, è strano, perché lui il portatore dovrebbe arrivare più forte, c'è un po' di feeling. Avanti Roberto. Ha perso lo scettro di torre di controllo, adesso il numero 1 a Sassari è Carlo. C'ha un segnale da paura, da tutte le parti arriva. Il numero 1 a Sassari non è Carlo, no? Se ci mette il numero 1 sono io che è Fabrizio. O grigliato. Sì, no, anche Fabrizio, da parte mia Fabrizio è forte, arriva forte. Però Carlo, considerando che c'ha una radio semplicissima, niente di più, qua arriva quasi 9,60. Muro su mi schiaccia a me, io col K e lui con quella 5 watt mi schiaccia, arriva a 9,40 Muros, arriva più forte di tutti, non parliamo a Ghero con le parti lì, non ce n'è per nessuno, poi Porto Torre, arriva fortissimo e lui c'ha 5 watt dall'apparato. Lui è vicino al Bullying, via Dao, di lì in alto, domina tutto, non ci sono nessun palazzo che gli dà fastidio, è tutto aperto lui. Fallo entrare quando c'è il Fabrizio, me lo vedo. Allora, io ti devo dire, Fabrizio qua arriva a 9,50, lui arriva più forte di Fabrizio, e Fabrizio c'ha un segnalone, anche Antonello lo stesso arriva a 9,50, però lui, liscio, con un'antenna J-Pol, quella che ci ha preso Claudio, arriva più forte di tutti. E la dimostrazione è che a Muro, pur essendo più lontano di me verso Muro, se lui arriva più, molto più forte di me, io arrivo a 9,30, lui arriva a oltre 9,40. Dove è Renato? Lui è via Dao, quella zona lì più o meno, dove c'è il bullying, quei caseggiati alti all'ultimo piano. Lì è una bella zona, dove c'era la Telecom, cosa c'è vicino di lì via Gorizia, dove c'erano i punti della Telecom, che adesso hanno smantellato un po' più indietro, lui è tutto aperto, lui tutto il mare domina tutto, per Alghero, per tutta la zona del Golfo d'Asinara. E poi è una bomba, ripeto, arriva in assoluto più forte di tutti, sia in trasmissione che in ricezione. Soprattutto la ricezione è importante. Via Dao, ho già capito lì, via Livia, dove c'era la Telecom. È sempre la stessa zona, via Astronauti, quella zona lì. Sì, vicino a via Astronauti, non c'è da sbagliare. Ok, io però signori mi devo lasciare perché vado a mangiare e mi guardo la partita. Piacere ascoltare a tutti, saluto l'ultimo entrato Walter, saluto Eugenio, saluto Antonio, non so se c'è ancora, e poi chi è rimasto qua su questo canale, vediamo un po' se mi sono dimenticato qua. Ah, Luca, mi sono dimenticato di te. Io faccio corretti, ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Ciao a tutti, con Walter, grazie, ci sentiamo da altre parti. Di nuovo corretti e ciao a tutti. Forza Juve, ci sentiamo, vai Luca. Ciao Robert, alla prossima, a tutti e tre, vedo una giusta, metà voi piatti, avanti Eugenio. Ciao Robert, buona cena, ciao, poi anche io tra un po' scappo ragazzi. E Luca, io sono juventino da sempre, anche il Cagliari, è anomala la cosa, ma se vince il Cagliari sono più contento che se vinca la Juve, sarò più cagliaritano forse, però... con l'Inter deve vincere la Juve per me, anche se l'Inter è più forte quest'anno. Poi vediamo. E poi la Coppa non mi interessa, mentre sarà più campionato adesso. Dobbiamo sostenere l'unica squadra a sarla, il Cagliari. Guarda, mi sa che quest'anno devo dell'Inter lo scudetto. Ma se la giocherà col Milan, io spero che la Juve arrivi almeno terza. Spero che il Cagliari salga di brutto, ha giocato benissimo ieri, quanto mi ha fatto più, ho visto tra partita, piacere quando ha segnato al 94esimo, per Iro, fantastico. Forza Sorso! Sì, Senuri e Lattedolce. Come che sono un po' quelli pomponi oggi? Buona sera a tutti. Ancora esiste. Allora, non mi ha ancora ammazzato il Covid. No, ma male, non mi muoio mai, già lo sai. Come posizione tu sei più in alto anche di Roberto, no? Sì, come sono più in alto di Roberto, però è la posizione che ho io che non sapeva niente. Se fossi stato in via Rizzetto, qualcosa sarebbe stata una cosa diversa. Da lì ci vuoi fuori di tutti i posti. Ma qua proprio è il seno alla gara. Sei più in alto là, dipende dall'antenna che hai anche. È l'altro fatto che lo sto usando. E arrivi più basso di Roberto Quadrato, arrivi 9,5. Ah, cappa. Adesso deve arrivare più forte. Sto usando lo speed della CTE, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saturo, 9 più 10. Ciao a tutti, stanno a mangiare, ritenetevi tutti salutati, ciao, buonasera e tutte voce, ciao. Ciao, anch'io fra un po'. E l'altro esaurito come si chiama? Il doppio rutto, non c'è. Ciao Eugenio, buonasera. Ciao Eugenio, buonasera. Allora, ciao a tutti, ciao Fofo, senti di bus, ciao. Ciao da via Buri. Il doppio rutto, non sta uscendo Luca. Ci è andato a mangiare, Walter, non lo so, era qua poco fa. Ah, già sei in radio, quello volevo sapere, va bene. Sì, già entra, entra ogni giorno, non fa molto, però già entra. Che casino, mamma mia. Cerca di riposare. Vabbè, sacco che mi preparo della Juve, sappiamo un po' più corno e mezza birra. Ciao Walter, alla prossima. Ciao Walter, ci sentiamo, saluto io. Buon critico e buona volata di TV. Ci potrebbe essere anche il Mopolo, mi pare. O sbaglio, Antonio ci sei. Ciao entrambi, ciao. No, andata a farsi la doccia. Presto io. Avanti. Buonasera, ciao Walter, buon pomeriggio, ci sentiamo. Ciao Antonello, ciao Luca. Luca, un altro posto ti avete stanotte, domani non c'è più nulla. Avanti Antonello. Chi sei? Come? Chi sei? Ma ci conosciamo, Marino, ciao Walter, Marino. Ciao Marino, arrivi più forte di Robben, 9:20, dove sei? Sono solo casa tua. Chiedo scusa, mi stavo chiamando lei, però non credi, scusa Walter. Ciao. Ciao Luca, adesso non ci viene i punti per te. Sì, da ottava. È vicino a te. Ah. E lei sarà presaurista del camionato, non c'è, Gigino. Grazie, sono io, scusate che mi stavo chiamando al fronte della cena. Ciao Walter, ciao Antonè, ciao anche a Luca, ciao Tony, Soltoni, cuoriti per me. Già quando di vero Walter, ti dico che non mi schierate. Ci sentiamo, ciao a tutti, riprendi Walter, ciao. Come ti sta arrivando a te Marino? E andò Walter, sei sotto casa mia, sono scala, io vedo anche le tue intende, le tue direttive. Quando faccio l'attraverso quelli di quella della cucca diciamo là. Ottimo, con lo scala Walter. Sì, 9:30. Va bene, ciao Marino, grazie. Mi hai conosciuto? Sì, già lo sai chi sono, sì, no? Sto pensando ma non sono sicuro. Vabbè, quando ci vediamo volete dire. Ci sentiamo, ciao Walter, ciao grazie, ciao, riprendo me. Aspetta Marino, io voglio che sei in line, cosa supposta? Supposta te la poli tu. No, vai, domani non c'è più nulla. Ciao Luca. Ma guai sei buon gustaio, ma perché sei così? Non ho capito io. Vai, coprisi, rimane coperto, vai, sto scherzando. Ciao Luca, ciao. Sono buon gustaio, sì. Quelli così di qua è bannuta. Comunque mattinare c'è la parte di munire la cara, mi pare. Cosa hai detto Luca? Giuditto, mattinare c'è a Walter, mi pare di munire la cara. E tu non lo comprate, a Walter non lo conosco, non lo conosco oggi a Walter, vai. Io ho più di 20 anni, magari lui c'ha memoria, ma io già lo conosco bene. Ok, Walter, dico solo una cosa, io lavoravo, dove tu c'hai quasi l'officina, vicino alla Rosa, diciamo là, di fronte, che venivi a prendere un po' di materiale. Ok, ci sentiamo con calma, ciao a tutti che mi stiamo chiamando, ciao. Ciao Marino, ciao ciao. Avanti, buon. Sì, ciao Mari, ci sentiamo. Avanti, Luca. E a tuo compito l'hai preso, no? No, devo prendere il terzo vaccino e sto già pensando a vedere come ci devo andare. Perché l'ha fatto Simona e l'ha fatto male questa volta, il terzo vaccino. È stata 4 giorni e stavo ben male, stavo. Braccio, tutte le gengive infiammate. Vabbè, purtroppo. La prossima volta che vado a farmi il vaccino, il quarto vaccino, mi metto le mutande al contrario, così non prendo il Covid. Esagerato. Magari non lo so, boh. Ce l'avevi ma non te ne sei accorto già da prima, mi sembra strano che ha fatto il terzo vaccino che abbia pigliato quella roba lì. Allora, lui conta che hai fatto gli altri due, almeno sei tappato, sei tranquillo, poi per un po' di febbre già passa, lascia di fare il suo decorso e poi sei più tranquillo. Vabbè. Casino, mi si inceppa la gola, la voce mi si blocca. E vabbè, tanto lunedì devo fare l'altro tampone, speriamo sia un negativo, almeno. Ciao, un casino. Devi fare la quarantena, quant'è? 5 giorni mi pare, so, quant'è? 10. Che ha fatto il booster, che sarebbe la terza dose, io 5 giorni. E io dai, già sono negativo. Sì, c'è una fila avanti, sono in farmacia qui da Masara, 50 persone c'era facendo il tampone, e gli ho detto al farmacista, ci manca solo la variante Sata, gli ho detto quella dei porcetti, siamo a posto. Stanno facendo un bel faccio un bel rilascio di vattene. Fate un conto. Ma quindi il giro l'uno sono 750 euro. Ok, questo c'è 50 persone, c'è solo via da Masana, poi senza contare l'altra farmacia, quella che c'è in via di Galilea Buzzi, capito? Che fa angolo, adesso mi ricordo, via San Paolo. Anche quella piena, tutti per fare il tampone. Oppure via lì cosa, mini, e via Levante. Poi sono andato in Viale Trento col medico lì. Più avanti c'era la farmacia. Gli ho detto se facevo i tamponi. Metto, vabbè, ti ci metto in mezzo, va detto. Infatti, vabbè, ma sono andato al medico a farmi controllare. E poi sono andato a farmi il tampone. C'era un ragazzo che conoscevo anche, però sono entrato io, aspettavo l'esito, poi è entrato lui, mi ha chiamato, oddi che positivo, è stato quel mio amico lo stesso, comunque è positivo. Casino, è un casino adesso. Vabbè, secondo me qua c'è sempre il pieno, specialmente nei supermercati, non c'è più qua. Vedi, prima facevano entrare una a una, adesso invece se ne sbattono le palle. Tu vai lì nel reparto alimentari dove c'è il frigoriferi qui, è una cosa allucinante, devi triplare per poter farti la spesa. E sotto le trovi 5 attaccate a culo, te le trovi. Casino. Dovrei dare. Mi sa che sta iniziando il freddo, ci sono, riesce a vedere, sta aggiornando, comunque allora, adesso ci sono 5 gradi, e poi vabbè stanotte a 4 gradi, giovedì scendono a 2 gradi, venerdì 1 grado, poi 3 gradi, 3 gradi, le minime, le massime, vabbè, le massime già sono alte. Malte, 10 gradi, 11, 13, 13, 11, 12. Perfetto, c'è, mi viene alto, sono sceso da Nico, sono sceso, mi viene alto a bere un paio di birre. Questo sono salito in tram, e lì poi siamo andati a casa Giovanni, ci avevo avuto un paio di birre assieme. Ma stamattina mi sono svegliato, c'avevo il naso e mi stava colando, ho preso freddo ieri sera. Solo per aspettare il tram, figurati. Mi avevo un ghiaccio via. Vabbè, comunque uno si ammala anche per via delle temperature. Ma se con le temperature più alte stai più scoperto e così, pum, ti cancareggia. Ma anche quando stai nei posti che esci fuori, magari per una boccata d'aria, quella non è boccata d'aria, ma è di più. Se vai al circolo e poi esci per fumare, ti crepa, perché dentro c'è caldo, esci fuori ti ammazza. Così qui di fronte a casa la curita c'hanno la maniera di usare il cosa manetta, il riscaldamento a manetta, infatti non ci sto entrando più. Preferisco prendere il tram, parlo a Nico, non c'è riscaldamento, non c'è niente, quando entro sono tranquillo, e quando esco lo stesso. È arrivata l'ora, mi ha fregato, ma come ero lento, c'era un caldo, come sono uscito fuori, ma ho cominciato a sentirmi male, mal di gola e sensazione di brividi, capito? Poi avrei passato subito, una volta mi sono messo dentro a letto, ha giubilato, via, a letto. Cosa ti sono vendi? No, è il coso, è vaccinare, quello che c'è vicino a te, ti sto ascoltando. Su un canale 1 in cosa di RPT. Che sai la frequenza? Quale frequenza è? 433 075. Mi si ama e lo risento. Io già risento. Anche su 4 ci sono, però la frequenza non me la ricordo. Ok. C'è una ragazza che parla, poi c'è un altro, c'è un cicalino, c'hanno le portatili. Quelli della blu di là, Vabbè, qua sono chiusi, impossibile che siano qua. Sono solo io, allora su quegli indirizzi non c'è ancora a sbagliare. Arrestedo sono allora. Senti. A meno che non sarò dentro l'ospedale. Ma voi che ci sono anche quelli dell'ospedale che parlano, c'hanno quei... gli 888 c'hanno. E li usano da pronto soccorso alla... ai piani. Ciucchicciù, ciucchicciù. Andiamo. È entrato, sei fuggito, vieni.